Risponde allo studio legale dell'avvocato Sodere. Siamo assenti. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Parlate del consiglio acustico. Grazie. Pronto? Avvocato? Lei non me conosce, ma ha dato il numero suo, la moglie dell'ingegner Venturola, c'ha presente? Io gli telefono per fatto di stamattina di via Poggio Caretta. Pastarelli Renato era mio marito, io so Pastarelli Armenia, la priva di vista. Prima di tutto, avvocato, io intendo confermare che il delitto è causa mia, però a parte questo io gli telefonavo per avere informazioni sull'attenuanti, sì, perché se certe attenuanti mi dovessero essere confermate, avvocato, io potrei decidere seduta stante di costituirmi. Quello che mi interessa di sapere innanzitutto è il seguente. Io vorrei sapere se, essendo stato abolito, come pare sia stato il delitto d'onore, un delitto del genere mi dia al giorno d'oggi, se non l'assoluzione totale, almeno una riduzione della pena, e se poi il qui pro quo, l'equivoco che... Ma come già? Risponde allo studio legale dell'avvocato Solere. Siamo assenti. E me ne sono accorta. Scusi, avvocata, era finita la segreteria. Gli stava a chiedere se per caso, in caso di delitto d'onore, ammesso che ancora ci sia, un delitto del genere mi dia al giorno d'oggi qualche attenuante di più e in più. E qui gli chiedo gentilmente di fare un attimo mente locale in presenza di un handicap fisico come il mio. Sì, perché, avvocata, a raccontare alla gente quello che è successo non ci crede, gli pare una barzelletta. Per questo in tribunale lei deve spingere, e non poco, sul dramma che la retinopatia degenerativa mia m'ha avuto sulla psiche. Sì, perché, avvocato, guardi che io sto sotto psicofarmaci da anni, io ho una riduzione del viso del 96% e a me mi pare più che lampante che una situazione come la mia mica può essere giudicata come quella di una donna normale che pia ammazza il marito. Guardi che io non so, ma così non se può. Risponde allo studio legale dell'avvocato. Ma non ce l'ha una segretaria questo? Avvocato, parlo di corsa perché sta segreteria sua mi pare un po' risicata. Gli stava a dire che io non sono mica nata cieca, a me la retinopatia mi è venuta così d'amblè 5 anni fa e da allora è iniziato l'inferno in cui campo. Ma adesso io non voglio farla patetica, però vedrà che se prova a mettersi nella situazione mia mi capisce subito. Mo glielo chiedo proprio a lei. Gli pare comprensibile che con tutto sto calvario che mi è cascato addosso io mi sia intristita, che io mi sia inacidita, pure incattivita, tiè, che io sia cambiata, e so cambiata sì, sono diventata cieca, chiunque mi avrebbe capito, chiunque, solo mio marito lui invece no, lui non capiva, lui dice che non trovava più in me la donna che aveva sposato, e quando che ero triste, quando che c'avevo la depressione, lui si incazzava pure, ma perché non me lasci sta, ma perché non capisce il dramma mio, ma perché non la finisci di piangere in giro con queste speranze tue e guarisci, mi dai su, non fa così, non me le danno i medici le speranze, me le dai tu. E vabbè, ma uno se perde il filo, io glielo devo dire sto severa. Risponde allo studio legale dell'avvocato Severa. Magari è il segretario. Sarà mica frocio. Avvocato, sempre Pastarelli. Insomma, io gli stavo a dire di mio marito, ma adesso io non è che voglio da lui tutta la colpa, di sicuro pure per lui, sta retinopatia deve essere stato un colpo terribile, solo che lui mica me lo diceva. Se lui mi avesse parlato, se lui mi avesse fatto capire la disperazione che c'aveva dentro, di sicuro oggi non saremmo arrivati a sto punto. Avvocato, guardi che io le cose sue le sono dovute venire a scoprire oggi, 22 febbraio, al GR2 delle 11:30, quando hanno intervistato il portinaio e il giornalaro che raccontavano quello che gli diceva Renato. Allora ho capito tutto, ho capito il qui pro quo di cui gli dicevo prima. Ma se tu sto dramma che te porti dentro non me lo fai capire, se mi tratti come una ragazzina, se me nascondi le cose tue, allora sai che c'è, sai che c'è. Allora poi non te pentire di quello che ti succede. Vuoi fare l'uomo forte, vuoi fare quello, so tutto io, faccio tutto io. Allora, avvocati, faccio scrivere sull'atti che è stata la vittima stessa che mi ha impedito di capire, di capirlo, di comprendere. Risponde allo studio legale dell'avvocato Severa. A Severa famo notte così. Sempre io, dicevo, La cosa nasce pure perché io non mi sono mai decisa a imparare bene il braille. Lo so, sono d'accordo, è stata una cretinata, una cosa da ragazzini. Pensi, lo sa cosa ho detto per 4 anni fino all'ultimo Natale? Finché c'è una sola speranza, una pianura sta cieca, io il braille non me lo imparo. Poi un anno fa ho capito che cieca era e cieca c'era stata e ho cominciato. Ma mica è facile, avvocato. Io non ci sono manco portata, non c'ho la sensibilità sulle dita, mi sbaglio le lettere e quando sono incazzata è pure peggio. E in più se ultime 2 o 3 settimane a mettermi addosso il carico da 11, avvocato, ci si è messa la certezza che Renato si era fatto l'amante. Avvocato, io non so che dire. Io de prove non ce n'avevo manco una, ma de sensazioni. A bizzeffe, avvocato, a bizzeffe. Quello che era sempre stato un vulcano, de botto mi si è ammosciato, è diventato teso, scontroso, nervoso. Gli facevo le domande, scantonava. E poi lo sa che faceva certi pomeriggi? Lo sa che faceva? Piava e usciva per conto suo e dannava e mica me lo diceva, si inventava una scusa e me lasciava là. Se invece lui mi avesse parlato, se invece lui mi avesse detto come stavano veramente le cose sarebbero andate in modo diverso. L'ha fatto e no che non l'ha fatto. Avvocato, è stato l'atteggiamento suo che mi ha fatto venire in testa tutte ste fisse. Ma io sto sotto psicofarmaci, io non posso essere trattata come una donna normale che con tutte le cosette su. Rispondere subito legale dell'avvocato Solera. Siamo lasciate un messaggio e sarete chiamati. Avate il consiglio acustico. Grazie. Importantissimo, mi fia. Quella da un po' di tempo si è riempita dei chiodi, dei ferri spillati sul naso, sull'ombelico, pure sulla lingua mi ha detto che ce l'ha. Però insomma, vabbè, questa è grossa, se gli piace di farsi bucare, certo non glielo posso impedire io, però. La cosa, il fatto, è che la ragazza ci ha raccontato di certa gente per la quale le cicatrici sono messaggi, tanto che certi americani che ha conosciuto d'estate, pensi, avvocato, che se fanno tagliare apposta, così le cicatrici che gli vengono diventano parole che se vedono, che uno può leggere. Insomma, avvocato, a me sta cosa mi deve aver fatto impressione e mi è rimasta la testa. Anna Mar, dunque, io stamattina ero isterica perché pure ieri Renato se n'era uscito senza dirmi dove era andato. Allora, quando che l'ho visto, gliel'ho chiesto con le buone, niente. Gliel'ho chiesto con le cattive, niente. Gli ho chiesto incazzata, niente. Così quando mi è capitato sotto mano mi sono saltati i nervi. L'ho preso e gli ho messo le mani in faccia. Ma che ne potevo sapere io che sulla pelle gli era venuto quel popò di sfogo e che gli era venuto per dolore dalla situazione mia e che quando usciva andava dal dermatologo ma non me lo diceva per non angosciarmi, angosciarmi, ma di che io sono diventata cieca, figurati se mi faccio angosciare dalla dermatite. E poi, ma se può sapere che te frega a te se io me ce sento colpevole, ma soprattutto, ma dimmi una cosa, fammi capire, ma chi ti ha detto che me ce senti? Allora che fai? Me lasci là a mangiarmi il fegato? Lo sai perché? Lo sai perché? Perché te piace dentro a quel film che te sei fatto in testa, dove tu sei l'eroe, il santo, il missionario, e io sono la lebrosa, ecco perché, e io ste cose, avvocato, le sono dovute venire a state dal GR, radio, dalle strane, mo capisco tutto, mo che se n'è andato tutto a puttane. Ma io lo dico, a me mi frega niente, io lo dico. E penso e mi vergogno perché si chiama Severa. Rispondo allo studio legale dell'avvocato Severa. Siamo assenti, lasciate un messaggio e sarete richiamati. Parlate del consiglio acustico. Grazie. Avvocato mio, e il prezzo di tutte queste telefonate lei però me lo scala dalla parcella, perché con questa segreteria che dura 1 secondo e mezzo gliel'assicuro che è uno stress terribile. E comunque, avvocato, io glielo giuro sulla testa di mia figlia, che quando ho messo la mano sulla faccia di Renato, le dita mi hanno letto perfettamente in braille. Cornuta mi scopo Marisa. Cioè, sono pure ripassata sopra per confermare. La frase stava lì, bella, bella sulla faccia sua. Cornuta. Però, ecco, avvocato, è fatto quello che gli volevo dire. È che in effetti quello che ho letto, per essere proprio pignolissimi, è stato cornuta mi sgopo Marizza. Però lei mi capisce mo tra cornuta e cornuta, la differenza è poco il senso quello che conta. Eppure sul resto della frase, mo adesso a mente fredda, io mi rendo conto che è stato tutto uno sbaglio, un qui pro quo. Però in quel momento sento quell'incasinamento di sensazioni, di nervosismo, di frustrazione. Beh, io sento la freddezza di pensare che col braille mio mi stava sbagliando, io non ce l'ho avuta. Io ho pensato che Renato si vergognava di dirmi che si era fatto l'amante e mi voleva lasciare. aveva paura di dirmelo e faceva bene, e se l'era fatto scrivere sulla faccia da uno degli amici di nostra figlia. Avvocato, io lo so che questa farà la barzelletta del cieco che mette la mano sulla grattugia e non riesce a capire che c'è sta scritto, ma questa non è una barzelletta, qua c'è di mezzo la galera, questa è un'altra. Dangari danga! Avvocato, comunque io adesso sto nascosta in un posto sicuro. Come ci sono arrivata io spiego poi di persona vis-à-vis. Adesso lei che torna a studio dal tribunale faccia il piacere, spenga sta segreteria, così quando chiamo me dà la risposta su sti attenuanti. Avvocato, attenui, se inventi qualcosa, trovi in cavillo, chieda all'amici sua, faccia qualcosa, ci deve essere una protezione per situazioni come queste. Io non dico che non voglio pagare, ho sbagliato e pagherò, però pretendo che le condizioni tragiche in cui mi venga a trovare, e ripeto avvocato, diminuzione del viso del 96%, retinopatia degenerativa, cioè ciechezza a vita, e psicofarmaci come fossero mentine, e soprattutto un marito deficiente che non mi fa capire in cazzo, avvocato, io pretendo che mi vengano riconosciute. E a quel punto, quando lei mi dà conferma del tutto, io gli do l'indirizzo, gli dico dove ho buttato il trinciapollo e lei me li apprende. Siamo spiaciuti, a causa del protrarsi della conversazione i messaggi sono stati cancellati. Ma come? Ma che davvero? Ma io non ci posso credere. Ma come cancellati la Severa? Ma che sei pazzo? Ma io non ci posso credere, ma tutte a me mi devono succedere. Cioè io non ci credo, ma madonna che giornata!